continuano a cambiare in settimane fra di loro estremamente vicine. Le canzoni che vengono scelte, allora quello è un chiaro indice che giudico di buon valore l'intero album e non una singola canzone. E per esempio quello che sta succedendo con The Toys Orchestra ed anche quello che succederà, ve lo assicuro, con Windmill, che avete cominciato a conoscere questa settimana qua in Eclettica. Un altro nome che avete cominciato a conoscere provengono da LA, Stati Uniti, si chiamano Bar, che avete appena sentiti con The Song is the Single e la voce così peculiare di Brendan Fowler, il loro cantante. We'll be right back.

Non lo posso dire per i Muzak, ma semplicemente perché loro sono presenti da mesi all'interno delle playlist di Eclettica, però questo è un bel momento per le novità. Ci sono parecchi brani, parecchi gruppi interessanti che vanno a impreziosire come novità le playlist di Eclettica, a partire dai Battles ascoltati 3 brani fa per arrivare a Black Eyed Dog 2 brani fa, un artista italiano, infatti è lo pseudonimo di Fabio Parrinello, che incide per la Ghost Records con distribuzione Audioglobe.